Mix 24 di Giovanni Minoli. Filippo Pappalardi, il papà dei fratellini di Gravina in Puglia, scomparsi il 5 giugno del 2006 e ritrovati senza vita 20 mesi dopo in fondo ad una cisterna di una casa nobiliare disabitata. L'uomo arrestato a novembre del 2007 con le accuse di sequestro di persona, omicidio e duplice occultamento di cadavere venne prima posto ai domiciliari in seguito alla derubricazione delle accuse da omicidio ad abbandono di minore seguito da morte. Sarà discussa dinanzi alla Corte d'Appello di Bari l'istanza per ottenere un risarcimento di 516.000 euro per ingiusta detenzione avanzata dalla difesa di Filippo Pappalardi. Alla richiesta di risarcimento si è opposto il Ministero della Giustizia. Signor Pappalardi, lei è stato accusato di aver ucciso i suoi figli, arrestato, scagionato da ogni accusa dopo il ritrovamento dei corpi dei bambini. Ecco, dopo quanto tempo è stato scagionato? Sono stato scagionato dopo 6 mesi. Dopo 6 mesi? E oggi è risarcito con 65.000 euro, è così? Non ancora. Siamo ancora in discussione quanto riguarda, perché la Cassazione l'ha rimandata di nuovo a Bari e Bari deve fare di nuovo il conteggio, che era tutto sbagliato. Senta, ma cosa scatta nell'anima di un padre quando arriva un'accusa così tremenda di essere l'assassino dei propri figli senza avere la possibilità in fondo di dimostrare la propria innocenza? Vivi male perché tutto di giorno alle spalle, nessuno ci crede, stai tutto male, stai male dentro e fuori, ti tolgono tutta la vita. Ma lei ha pensato al suicidio? Io ho pensato molte volte, perché se fai il suicidio la devi imparare a loro, devi combattere, devi solo pregare che esce la verità. Ma cosa le dicevano gli investigatori durante gli interrogatori? Perché non le credevano? Perché noi sapendo che io non c'entravo niente in questa storia, perché io c'ho sotto casa le telecamere delle banche, io abito al centro del paese e risultava tutto l'orario che usciva e che entrava. Purtroppo queste telecamere l'hanno rigettato sempre. Ma come mai? Con che giustificazione? Non lo so, questo è ancora tuttora, non lo voglio dire. Ma gli investigatori che cosa hanno sbagliato, se poi si sono accorti di aver sbagliato? Sì, gli investigatori hanno sbagliato tutto, perché io, quella si vedeva tutto, l'orario, noi non parliamo di testimoni, non parliamo di telecamere, che sono migliori dei testimoni. Adesso che funzionano sono le telecamere, che ti dice minuti, certo, secondo con chi stai. E allora continuava a dire all'indagine, questo è tutto il discorso. Senta, ma secondo lei Ciccio e Tore sono caduti accidentalmente nella cisterna o li ha spinti qualcuno? Allora, i miei figli ancora tuttora non si sa cosa è successo, sappiamo per certezza che in compagnia dei miei figli c'era un'altra persona. Ma lei chiede una riapertura dell'inchiesta? Sì, anche per questo fatto non vogliono accettare. Cioè abbiamo la registrazione che diceva chi stava insieme, quella sera insieme ai miei figli, abbiamo fatto con l'avvocatessa Maria Currado per riaprire il caso, ce l'hanno rigettato, adesso abbiamo fatto la Cassazione per riaprire il caso. Senta, 60.000 euro di risarcimento. È un'offesa, secondo lei, è una riparazione? No, è un'offesa che hanno fatto. Ma esiste una cifra giusta, un giusto risarcimento per un dolore così grande? Esiste. Esiste, e che dimensione potrebbe avere? Non lo so, questa valutazione, non c'è prezzo. 800 24 00 24, numero verde, 349-238-6666, l'SMS. E allora adesso entriamo dentro la notizia. Mix 24, dentro la notizia. Beh, abbiamo sentito questa testimonianza incredibile e dolorosa di Filippo Pappalardi, il padre Ciccio e Tore. Ecco, la nostra domanda oggi è semplice e precisa. Ma la tecnologia rende inattaccabili sempre più di prima le indagini? Ecco Mario, gli investigatori di una volta senza la tecnologia come facevano? Erano meno bravi? No, ci sono quelli bravi anche oggi. Usavano di più la logica, la deduzione, il cervello, mi verrebbe da dire. Secondo me molto però di quello che vediamo oggi deriva dalla spettacolarizzazione delle inchieste, no? Di un certo tipo di inchiesta. Poi pensa anche a che cosa è successo per esempio con il serial sulle gesta della banda della Magliana, con Romanzo Criminale, eccetera. Quindi il risultato finale è che molto viene condizionato, secondo me, dal pubblico, contano gli ascolti, i titoli delle pagine dei giornali, e i risultati delle inchieste poi, sai, sono un epilogo eventuale di un durante invece molto lungo. Pensa che ne so, alla figura dei criminologi. Prima erano dei personaggi oscuri, sì, che erano dietro le inchieste, della e oggi sono protagonisti della televisione. Cioè, una famosa puntata di Porta a Porta su Cogne fece 8.380.000 spettatori. Sì. Sono andato a riguardarmi i numeri, sono impressionanti. 36% di share, punte di 10 milioni, sono cose che si facevano, no? Numeri che si facevano un tempo su, che ne so, l'11 settembre. Certo. Quindi a tutto questo tu aggiungi poi a questo cocktail già micidiale il totem della tecnologia, per cui hanno fatto passare l'idea che con questa tu hai risolto tutto, e finisce poi che l'arte del delitto di cui parlava Hitchcock è diventata una situazione anche surreale, ma devo dire che basta accendere la TV, insomma, dai. Per infatti tu hai citato Hitchcock, ecco, sì. Penso che ci sia anche la leva della paura. Sentiamo cosa diceva Hitchcock, appunto. Everyone loves to feel something. Vede, la gente ama sentirsi seria, anche quando non lo è. I bambini, ad esempio, amano sentire la paura. Infatti, fin da bambini si va nelle montagne russe per provare l'emozione del brivido. A Londra c'è il Museo delle Cere e c'è là dentro una grande stanza che si chiama la Stanza degli Orrori, e la gente paga un salato per entrarci. Insomma, la gente paga per sentire paura, ma una paura con l'assicurazione, con la certezza, cioè, che è soltanto una finzione. La certezza del lieto fine. Pietrangelo, tu sei un uomo di letteratura, di lettere, insomma, sai quanto il racconto del crimine sia popolare. Ecco, si esagera col racconto del crimine. Peppino Sottile mi insegna sempre un trucco che è tipico del nostro mestiere, e cioè di fare leva su un sentimento, quello che ognuno di noi ha quando scoppia un temporale. Tutti noi andiamo alla finestra ad osservare i fulmini e quello che succede. Però, appunto, si esagera perché si amministra il temporale. Si mette mano a quello che succede tra fulmini, nubi e pioggia. È una vicenda squallida, inqualificabile, come quella che è successa a margine del delitto del piccolo Loris a Santa Croce Camerina in Sicilia, quando le trasmissioni televisive amministravano e apparecchiavano con una scelta drammaturgica quello che dovevano dire in TV i testimoni, i parenti della vittima, a prescindere dalla piccola carne massacrata del bambino. È qualcosa che fa schifo. 800 24 00 24, numero verde su questo tema se volete intervenire, 349 238 6666, l'SMS. Con Franco Coppi, che è il re sostanzialmente dei penalisti italiani. Professore, lei vorrei chiedere, gli errori giudiziari si moltiplicano, lo vediamo, nonostante la tecnologia sia sempre più invasiva e avesse promesso di far cambiare pagina una storia piena di insuccessi. Ecco, abbiamo troppa fiducia nella tecnologia? Ma paradossalmente temo di sì. Si pensa che la prova acquisita attraverso procedure scientifiche debba essere una prova decisiva, e in realtà la colpevolezza o l'innocenza di una persona dipendono da un'infinità di elementi, e quindi bisogna valutarli tutti. La prova scientifica è molto importante. È un elemento in più. Ma c'è anche una pigrizia di considerarla definitiva? Oddio, quando si pensa che si ha la scorciatoia, che la scorciatoia dovrebbe portare sicuramente a un risultato più comodo, ovviamente. Senta, abbiamo visto serie televisive fortunate contribuire a un immaginario dove l'investigatore scopre il colpevole con la tecnologia e non con l'intuito e la ricerca del detective. Ecco, professor Coppi, dobbiamo rimpiangere in qualche modo il mito di Maigret? Io sarà anche per ragioni di età, sono portato a dir di sì. A me piaceva il vecchio maresciallo di quartiere che, quando accadeva un furto, 99 su 100 sapeva dove mettere le mani e dove andare a fare le ricerche, perché conosceva la situazione e le persone. Ecco, restando alla metafora un po' letteraria, Sherlock Holmes è un personaggio che usava le tecniche di investigazione scientifica, ma era anche intelligente e intuitivo. Ecco, qui si raccolgono le prove e poi si appiccicano addosso i colpevoli, purché sia anche un po' così. Direi che c'è questo rischio, qualche volta si cade in questo errore. A dire la verità, poi ormai non c'è processo il quale non si faccia prima, lo devo dire con tutta il processo onestà. Televisivo. Il processo televisivo, si sentono i testimoni ancora prima che l'interrogo del magistrato, e quindi alla fine sembra quasi che la prova scientifica debba essere il suggello a qualche cosa che è stato già raggiunto. Ecco, ma nel processo reale, lei che li vive sul carne e ossa, ecco, nel processo reale questi processi televisivi influenzano molto? Caspita, lei pensi a tutti i testimoni che vengono a deporre in un processo dopo che sono stati sentiti da 3 o 4 televisioni, da una ventina di giornalisti, dopo che le loro dichiarazioni sono state spiattellate a destra manca, si immagini con quale virginità si presentano all'esame. Ma lei pensa che bisognerebbe vietarlo questo? Guardi, il problema... Perché è un problema serio. È un problema serio, però certamente bisognerebbe disciplinare, non permettere un taglio alla stampa, per carità di Dio, però in certi momenti bisognerebbe bloccare una diffusione di notizie. Adesso l'altro giorno mi pare di aver assistito addirittura in presa diretta ad un'ispezione dei luoghi in un processo clamoroso, quello di quella mamma accusata di aver ucciso il proprio bambino. Lì abbiamo assistito addirittura in battute in presa diretta ad un'ispezione dei luoghi con lei che parlava e c'erano chi commentava le sue dichiarazioni. Ma lì sono gli inquirenti che chiamano le televisioni. Ma infatti non sto dicendo di chi è la colpa, ma certo è una cosa clamorosa. Professor Coppi, lei è uno dei più grandi penalisti italiani. Nel processo, per esempio, sul delitto Iara, gli inquirenti hanno taroccato le immagini del furgone, l'abbiamo saputo, di quello che doveva costituire in qualche modo una delle prove contro Bossetti. Dicono di averlo fatto sotto la pressione della stampa, della televisione soprattutto, per dare delle risposte. Ecco, ma che ne pensa lei? Dunque, io non so se questo poi alla fine risulterà vero o meno. No, neanche io lo so, ma insomma così sembra. Se però fosse accaduta una cosa di questo genere, a me pare di trovarci di fronte ad una cosa assurda, perché non si può poi fuorviare l'opinione pubblica, non si può. Pensi anche a un test che è in dubbio e che vede quel programma e che quindi si convince in un certo determinato senso e quindi va in perfetta buona fede a rendere le sue dichiarazioni, ormai convinto che le cose debbono essere in un certo determinato modo. Certo. E questa è l'influenza che si viene inevitabilmente per forza. Ecco, ma negli altri paesi non è così, non c'è, è più regolamentato l'influenza dei media, no? Guardi, bisognerebbe proprio viverci e vederle quelle esperienze da vicino. Per quel che ci risulta, non è che abbiamo indicazioni nel senso che lì le cose vadano come da noi. Ecco, la sensazione è che ci sia un po' più di cautela. Lei ha anche difeso un imputato alla Commissione Grandi Rischi. Il collegio era accusato di non aver previsto il terremoto dell'Aquila. Sono stati tutti prosciolti. Senta qua. Tutti assolti gli scienziati della Commissione Grandi Rischi. Dopo quasi 11 ore di Camera di Consiglio, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione dell'appello. Unico condannato rimane l'ex vice capo della Protezione Civile, De Bernardinis. Le accuse erano omicidio colposo e lesioni per non aver avvisato la popolazione aquilana del rischio sismico dopo la riunione del 31 marzo 2009, 6 giorni prima del terremoto costato la vita a 309 persone. In primo grado erano stati condannati a 6 anni di reclusione, tutti 7 imputati. Ecco, com'è stato possibile istruire un procedimento su un'accusa del genere? Ma guardi, qui però sono stati commessi degli errori anche nella interpretazione dell'accusa, perché l'accusa non era quella di non aver previsto il terremoto. Ah, ecco, qual era? Ecco, l'accusa era un po' sottile, e cioè si riteneva che fossero state date notizie fuorvianti circa il rischio di un terremoto, perché tutti hanno sempre convenuto sul fatto che il terremoto è un fenomeno imprevedibile, però si sosteneva, è stato sostenuto da parte del giudice di primo grado, che era prevedibile il rischio del terremoto e che in relazione a questo rischio siano state propalate delle dichiarazioni rassicuranti, per cui la popolazione avrebbe poi tenuto un comportamento diverso da quello tenuto fino a quel momento, cioè non sarebbero scappati di casa via, alle prime scosse. Ecco, questo è... Poi i giudici di appello hanno analizzato le dichiarazioni di questi scienziati una per uno e hanno ritenuto che in realtà costoro avevano rappresentato la situazione di rischio e di pericolo in cui versava l'Aquila. Ecco, che è zona sismica. Certo, per antonomasia. Ecco, professore, sì. Le intercettazioni sono la base di moltissimi processi e sono indispensabili, però sono uno strumento di cui si abusa, secondo lei? È impensabile rinunciare alle intercettazioni. Assolutamente, questo, certo. Ecco, com'è purtroppo è impensabile rinunciare ai partiti, collaboranti, li chiami come vuole. Certo. Come al solito, poi il problema è l'uso che se ne fa. E intanto torniamo ai giudici. Sì, ma poi esiste il segreto istruttorio, non è che è stato abolito, quindi basterebbe tutto sommato rispettare tempi e cadenze e quindi poi le intercettazioni renderle note nel momento in cui sono pubblicabili gli atti del processo. Ecco, Domenico da Parma scrive: infatti i processi mediatici sono il lato più oscuro e barbaro della società della comunicación, non ha torto. Sui media ci si fanno sempre tutti i nomi, perché non si fanno mai i nomi dei giudici che sbagliano? Una bella domanda. E poi ancora, non dimentichiamo i pullman per Avetrana, c'è chi scrive, ma la colpa è della gente che paga per andare o per chi li organizza? Mario, tu sei stato direttore dei giornali, ti sei occupato molto di cronaca, ecco, che caso ti ricordi con particolare forza di quelli che hai affrontato? Ma tra i tanti quello dell'Olgiata, del delitto dell'Olgiata, perché pensa, avvenne nel luglio del 91 ed è rimasto un caso irrisolto fino praticamente poco tempo fa, l'altro ieri. E la cosa incredibile è la tecnologia che l'ha risolto. No? Questo sì, questo sì, lo ricordo apposta, perché la fine era, come in un classico dei gialli, il colpevole era il maggiordomo, Manuel Winston, il cui DNA fu trovato in un orologio tra le lenzuola della contessa Alberica Filo della Torre. E la soluzione arrivò così, col DNA nel 2011, attraverso la riapertura di un'inchiesta, e dopo due giorni l'assassino confessò. Devo dire, molti pensavano fosse il maggiordomo, però no, non così. Esatto, non così come nel giallo. Ecco, Pietrangelo, tu hai mai scritto di cronaca nera? Hai ricordi? Più che ricordo, una lezione, ancora una volta una lezione di Peppino Sottile. Nel 1981, un grande maestro. Nel 1981 viene ucciso un mafioso a Palermo. E viene ucciso quando porta a spasso il cane, per cui nella scena del delitto c'è il cadavere, questo povero cagnolino ancora fermo, raggelato dal guinzaglio a guaire, e arriva la polizia, arrivano i parenti, arrivano i cronisti e ovviamente le informazioni sono tutte da raccogliere, certo. E quindi il vecchio cronista cosa fa? Si avvicina e individua il parente, quello più silenzioso, più cupo, ma dice quando è successo? E quello sta zitto. Ma come è successo? E quello sta zitto. E come si chiama? E quello sta zitto. Aveva figli? E quello sta zitto. Diceva qualcosa e quello sta zitto. Quando a un certo punto il genio, il lampo del grande cronista, qual è Sottile, e un cane, come si chiama? Indispettito quello risponde, eppure questo vuole sapere. Comunque, abbiamo visto un che il confine tra la fiction e la realtà è sempre più labile. Sentiamo qua. Vedi, non c'è dubbio, questa è Anita. Abbiamo anche fatto un confronto antropometrico. Quello seduto dietro potrebbe essere Mario Pugliese. Dov'era la telecamera? In un semaforo a 200 metri dalla casa di Vanni. Però l'orario coincide con quello dell'omicidio. Sì. Sì, ok, la telecamera era troppo distante per stabilire un nesso con l'omicidio. Però abbiamo la conferma che Anita non era da sola. Ore decisive per l'inchiesta sull'omicidio di Meredith Kircher. Su uno dei coltelli sequestrati a Raffaele Sollecito, gli esami di laboratorio della Polizia Scientifica a Roma hanno rilevato la presenza del DNA della vittima e quello di Amanda Knox. Donato Bilancia, il serial killer delle prostitute. Manuel Winston Reyes, l'assassino della contessa Filo della Torre. Daniele Restivo, presunto serial killer tra Gran Bretagna e Italia, accusato di aver ucciso Elisa Claps. Rudy Guedé, l'assassino, per ora l'unico certo, di Meredith Kircher. Sono solo alcuni dei casi italiani più eclatanti in cui la prova del DNA ha incastrato gli assassini. Ecco, a proposito della prova del DNA, Luciano Garofano, che è biologo generale in congedo dei Carabinieri, ex comandante dei RIS. Ecco, generale, lei è stato tra i primi a usare in modo sistematico l'analisi del DNA nelle indagini. Aveva visto i risultati di alcune inchieste, di processi. Le chiedo, troppa tecnologia rischia di intossicare le indagini? Molto bella, ma no, direi di no, perché vede, sicuramente la scienza ha facilitato molte indagini che ieri non era possibile affrontare. E pensi anche ad un fatto, cioè perché mentre ieri avevamo bisogno di testimonianze, oggi basta un cellulare per dare forza certo. a delle ipotesi che riguardano la posizione, le relazioni e quant'altro. Però lei ha pubblicato una serie di libri dal titolo Delitti imperfetti. Da questi libri è stata poi tratta una serie televisiva intitolata RIS. Ecco, la spettacolarizzazione ha certamente fatto bene a lei, ma alle indagini? Insomma, certo, la spettacolarizzazione ha fatto sì che la scienza potesse essere entrata in casa di tutti. Forse in una prima fase ci si è aspettato troppo dalla scienza, ma mi sembra che adesso probabilmente si sta tornando verso un equilibrio. Cioè, ecco, ma insieme... troppa TV non fa un po' male? Fa male soprattutto nella fase delle indagini preliminari. Cioè, dove comincia la fiction e finisce la realtà? Perché lì veramente c'è da essere spaventati anche qualche volta. Questo è vero, io credo che nella fase delle indagini preliminari bisognerebbe essere un po' più cauti. Però non capita. Non capita perché ormai le persone vogliono sapere, tutta l'informazione ruota intorno alla necessità di dare notizie a tutti i costi e questo anch'io lo condanno. Ecco, oggi lei fa parte dello staff di Quarto Grado, qualche giorno fa ha parlato del caso di Iara. Io sono rimasto personalmente colpito molto dall'ammissione degli inquirenti di aver manipolato un video a uso solo dei mezzi di informazione, ma non è una cosa pazzesca? Ma intanto bisogna vedere se è vero, io non credo L'hanno detto. No, non proprio così, perché quel video era un'elaborazione del ROS che documentava tutti i passaggi di un sì, furgone. Ma nessuno l'aveva detto, è bastata l'abilità di un cronista come Luca Telese per mettere in crisi tutto l'impianto accusatorio riferito a questo passaggio del pulmino, eccetera. Insomma, lascia un po' sconcertati oppure no? Ma guardi, io sono per la riservatezza, credo che questo tipo di così somministrazione del video, forse nell'interpretazione anche di Luca Telese, sia andata oltre quella che erano le intenzioni della procura. Le posso dire che però non c'era nessuna manipolazione, che poi forse non si doveva dare, questo è un altro discorso. Ecco, lei parlava del DNA in quella puntata. Lei è stato anche il primo a sperimentare nel 2002 in Italia l'uso del test di DNA addirittura su un intero paesino di 600 abitanti in Valle San Silvestro a Dubbiaco per risolvere il caso dell'omicidio di una pensionata. Quella volta è andata bene, ma non va sempre bene. Il DNA è per forza decisivo oppure no? Allora, nulla è perfetto, però ci sono alcuni casi in funzione del tipo di tracce che consentono di dare le risposte assolutamente affidabili. Ma quindi credo... non in assoluto? Ma no, perché dipende sempre dal tipo di traccia, da quanto DNA è residuato e quindi poi è anche necessario associare il risultato del DNA anche a tutti gli elementi che dell'indagine. Ecco, generale Garofano, però le faccio un altro esempio clamoroso. Raffaele Sollecito, Amanda Knox, accusati di aver ucciso a Perugia la studentessa americana Meredith, furono condannati, assolti, condannati, poi assolti definitivamente dalla Cassazione. Ci sono stati errori sulla scena del crimine in quel caso? Purtroppo sono stati fatti errori, soprattutto nella fase della ricerca delle tracce, quindi proprio sulla scena del crimine, che è un settore, io ho scritto un libro da poco, che appunto è il soccorritore sulla scena del crimine, perché spesso proprio chi entra per primo fa degli errori che non sono recuperabili. E poi questo... E in quel caso quali sono stati gli errori irrecuperabili? Direi una conduzione all'interno della scena del crimine non perfetta. E qua, sa, noi lavoriamo spesso con le tracce invisibili. Mm. E poi un altro aspetto che credo questo paese debba chiedersi di risolvere, cioè che gli esperti che vengono chiamati a dare il loro contributo nelle varie fasi, sia investigativo che processuale, devono essere persone veramente affidabili, con dei laboratori affidabili. Spesso questo non accade e quindi abbiamo dei ribaltamenti che non sono il risultato di una scienza che si alterna, ma di risultati di esperti che spesso non sono sempre esperti. Generale, senta, perché gli errori giudiziari, investigativi sono risarciti con cifre così basse, addirittura ridicole? Ci sono persone distrutte dietro queste storie di ingiustizia assoluta. Ma sono perfettamente d'accordo con lei, le dico che da quando io mi sono congedato e spesso mi occupo anche di difendere degli indagati, mi sono reso conto che il rischio dell'errore giudiziario è molto più ampio di quanto non pensavo. pensarsi, e quindi bisognerebbe un po' ragionare nel risistemare un po' tutto quello che è l'apparato investigativo e quello scientifico, e di conseguenza anche riaffrontare il risarcimento. Ecco, generale Garofano, lei è stato il capostipite italiano della genetica forense, ma prima di arrivare al test del DNA, l'investigatore che cosa dovrebbe fare o fa? Ma io credo che ci dovrebbe essere oggi più che mai, perché la scienza, come diciamo, è una realtà, una osmosi totale, una collaborazione totale tra investigatori tradizionali e scientifici, senza gelosie, considerando che veramente... Però ci sono le gelosie invece. Ci sono sulle spalle degli indagati. Purtroppo sì, e questo è veramente terribile, bisognerebbe smetterla con questo e cercare di pensare che tutti quanti noi dobbiamo servire i cittadini. Sì, però lo sviluppo dei big data, dell'informatica, ha creato molti miti. Secondo lei arriveremo a avere una macchina della verità attendibile, oppure sono illusioni pure semplici? Sarebbe una grande noia e un grande pericolo. Io spero invece che, insomma, noi possiamo vivere la nostra democrazia avvalendoci di strumenti scientifici sempre più affidabili, ma insomma, il grande fratello dopo tutta l'esperienza che ha fatto da una parte e adesso anche dall'altra, cioè le indagini fanno paura un po'. Ma sì, però per questo mi sento ancora più responsabile di dare nel mio piccolo un contributo affinché le indagini siano sempre più affidabili, attraverso la scienza. E lei si fida della magistratura penale oggi? Sì, ma per forza bisogna fidarsi, e se c'è qualcosa che non va, in maniera molto molto propositiva, denunciarla, perché questi errori possano essere contenuti al minimo. Certo, a me questa puntata non è che mi rassicura tantissimo, è un po' d'angoscia. Tu, Pietrangelo, preferisci Montalbano più come metodo? Decisamente, anche sì, perché Montalbano somiglia veramente, concretamente, a tutti i poliziotti, perché per esempio pratica il saltafosso, perché ragiona con la testa, con l'osservazione, insomma ha il metodo aristotelico. E poi su Montalbano vale sempre questo principio: ascolta. Non cacciare canale. Fu troppo veloce, voleva dire non cacciare canale. Un po' veloce. Manuela da Roma, Manuela? Buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo chiedere come mai i giudici che sbagliano in modo eclatante le indagini anche più volte non vengono mai sottoposti a loro volta a un giudizio. È una bella domanda che ci facciamo sempre. Chiedere anche noi. Avremo presto il capo del CSM qui da noi, glielo chiederemo perché siamo molto curiosi. Mario, per finire, ce l'hai una canzone? Ma è un classico, La Pantera Rosa. SMS, telefonate, Andrea da Chiusi, perché si parla così poco dell'omicidio del direttore del Monte dei Paschi, liquidato frettolosamente come suicidio? Adesso ha riaperto, noi stiamo preparando una puntata su quello. In Italia, nel dubbio pro reo, ormai è andata a farsi benedire. Ale, ha ragione. Fabio, pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, dica. Io tutti i giorni vi seguo, eccetera, però oggi ho voluto dire, dica. Voglio fare una telefonatina. La faccio. Allora, butto lì una provocazione. Sì. Vi ricordate del 2009, quando purtroppo successe quel il terremoto in Abruzzo? Sì, ne abbiamo parlato, infatti. Che due personaggi, diciamo, da mettere sull'altare, diciamo, sì, ridevano. Pregarono le mani, ridevano, per dire quando ormai ci capita un'occasione simile, approfittiamone. Sì. E io sono del parere, la butto lì, una provocazione, che molte volte la TV non vede l'ora di queste cose per parlare, sparlare, eccetera, di mali che purtroppo in tutte ha le ragione, società succedono. Ha ragione. Io volevo dire semplicemente: la televisione è diventata povera e quindi si attacca alla cronaca nera e sviluppa queste sensazioni negative, eccita la fantasia male. Grazie. Sì, Pietrangelo, oggi che ci fai sentire? Una scena straniante è quella della metropolitana quasi vuota nell'ora di punta stamattina. Quasi vuota, una scena strana che mi ha portato a questa canzone, che è la canzone adatta. E ho visto il futuro ed era un crimine. Questo è il verso di Cohen adatto a spiegare questa sensazione. Quando lui dice: datemi un'assoluta maestà su tutto. E siccome tutto sta per perdersi, il verso prosegue con una provocazione. Cioè dice: rendimi Berlino e il muro, rendimi Stalin e il suo breviario. Cohen, il futuro. Mario? C'è una notizia. C'è una notizia? Sì. Ah, no, allora gli F-16 di Ankara hanno abbattuto un jet da guerra che aveva. Non si sa ancora, questo è il vero. L'ISIS è difficile perché esatto. Non ce li hanno. Quindi o è russo o è francese. Sì. No, è una cosa grossa, certo. Perché è andato giù, ovviamente, è stato abbattuto dagli F-16 di Ankara, è stata chiamata una consultazione di NATO, ONU e tutti quelli che sono sulle operazioni di guerra in Siria. In forse momento. Si fa la coalizione. O è forse il caso. Che o è il temuto colpo di sparo a Sarajevo. Sì. Potrebbe anche essere. Insomma, sì, si, poi farà, si farà la coalizione. Allora, pensa, dopo tutti i sospetti che ci sono stati sul jet russo civile, certo, nel Sinai. Pensa adesso a questo incidente, se dovesse coinvolgere i russi, che cosa succede? Tra poche ore lo sapremo. Esatto, ma anche meno. Anche credo, meno. Perché... Bene, intanto tu, la tua bolla? È sempre di guerra, parliamo. Allora, il mio è un appello alla chiarezza del dibattito, alla civiltà del dibattito, alla puntualità del dibattito su una cosa che la politica non vuole nominare, la parola guerra, e guarda che è abbastanza paradossale che non solo con le notizie che appunto arrivano come un rullo compressore, certo. Ma oggi bastava sfogliare, ne cito uno su tutti, il Corriere della Sera, c'erano le prime 7, 8, 10 pagine, adesso non le ho contate tutte, certo. Che avevano un solo leitmotiv, il conflitto, la guerra. La politica fa fatica perfino a pronunciarla questa cosa. Allora riprendo il titolo del Corriere di oggi, che era Parigi-Londra, patto di guerra, no? Ed è un fatto, e c'è una linea. Ora, qual è la linea del partito di maggioranza, ma anche degli altri aggiungerei, insomma, perché mi pare che ci sia molta confusione sulla questione appunto siriana. Beh, la linea è no alla guerra. Sì, allora però mi spiegano, ci spiegano bene. Sembra che Renzi perché. L'abbia detto, no? No, secondo me no. Secondo te non l'ha detto secondo, abbastanza secondo chiaro. Me non l'ha detto bene. Anche Prodi ieri qui ha detto, non bombardare oggi D'Alema su Repubblica. Prodi, chiarezza. Tu citi due persone, due politici, Prodi e D'Alema, che l'hanno detto, l'hanno articolato, secondo me l'ha detto anche ce Prodi, l'hanno spiegato. Guarda, è talmente evidente la cosa che ieri la direzione del PD, dove c'era un'importante relazione del ministro degli esteri che doveva dare e spiegare la linea, è passata con il titolo, l'unico titolo diplomatico militare, per così dire, era la moratoria, la parola, e l'ha data a Renzi, ma non sulla guerra. Era su Bassolino e le primarie a Napoli. Vabbè, secondo me devono. Se è così, perché non ha parlato la Boschi, se no, no. Secondo linea. Me lei avrebbe una linea chiara. Certo, vabbè. Boschi for President, questa è la linea di Mario Salamino. Oggi è radiodramma. No. Eh sì, Don Antonio Bassolino viene rinnegato dal PD. E questo presepe a Napoli. E caro Giovanni, la domanda è sempre la stessa. Te piace? Il presepe che è una cosa religiosa. Non mi piace, caccia fa, non mi piace. Ah, dunque, oggi è radiodramma. E siccome il canovaccio è sempre lo stesso, mi sono gustato Fabrizio D'Esposito oggi sul Fatto Quotidiano che ha riscritto la sceneggiatura. Ed è la storia del razzismo vesuviano. Ancora una volta uomini chic e femmine pittate che ballano sono i piritolli del Partito Democratico, tutti ripuliti e dimentichi delle radici. Rinnegano il padre, Don Antonio Bassolino, e così arruffoni, furbacchioni, pezzenti, arricchiti, sceriffi hanno pensato, come ha ricordato anche Mario ieri, di ideare una norma contra personam per non fare correre Don Antonio. E qui è proprio come nella cantata dei pastori. Perché c'è il nemico, ed è Belfagor, Oriavolo, che non vuole fare nascere il bambinello. E Oriavolo chi è? È Vincenzo De Luca. Poi c'è quello che si inventa un convegno sarchiapone, e il sarchiapone chi è? Lorenzo Guerini. Quindi c'è l'arruffone, il pensatore della norma, ed è Luca Lotti. E poi c'è la forestiera, cioè la donna del figlio ripulito del rinnegato, quella che nel film era interpretata da Mara Venier, e qui invece è Deborah Serracchiani. Dice che c'entra lei con Napoli, ma non si sa, comunque si è voluta mischiare. E poi c'è il figlio ingrato, beato tra uomini chic e femmine pettate. E la morale è sempre la stessa. Cosa dire a questo rinnegato ingrato, che sarebbe Matteo Renzi? Era meglio se ti imparavi il zappatore. Col zappatore la mamma non si scorda mai. Ma cosa diremo a lui? Con Don Antonio, povero ripudiato, diremo che la fine è inesorabile. Ascoltate! A denocciato! E basta massimale! Pietrangelo, ti ha risposto un nostro ascoltatore, dice: la metropolitana è quasi vuota perché Striscia la Notizia ha fatto vedere tutte le persone che passano senza biglietto e quindi hanno messo i controlli. Bolla, Mario. Sto non era male. Bolla? Bolla, sì, ma non... Non parte la musica? Non parte. Allora vai senza musica. Vado senza musica. Noi abbiamo i nostri computer che regolarmente si incantano. Vabbè, faccio... Volete la sigletta? Allora, l'export tedesco cresce solo dello 0,2% nel terzo trimestre. La notizia di per sé non è che sia chissà quale cosa sconvolgente, se non fosse che la Germania continua a dare segni contrastanti sullo stato della sua economia, e dunque poi è un indicatore importante per capire quanto è forte la ripresa che c'è, ma ormai è abbastanza chiaro che la ripresa è quello che è, cioè è debole. È debole. Ora, occhi puntati, è debole dappertutto. Sì, abbastanza. Occhi puntati sul meeting della BCE il 2 dicembre, se non sbaglio, perché là credo che potrebbero essere annunciate delle misure ulteriori di Mario Draghi. Sai, appunto, che forse la ripresa è debole perché gli stili di vita sono stati cambiati dalla crisi? Beh, anche secondo me non sbagli. La paura, chi ha innanzitutto che l'ira la tiene, sì, non la spende. Sì, e poi secondo me c'è un tema che noi continuiamo a eludere abbastanza, cioè sullo stato di salute non solo economica ma anche morale, di fiducia della classe media, che è stata pelata notevolmente negli ultimi 20 anni. Canzoniere. Profugo per volere del fato sui lidi di Lavinio. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS difficilissimo. No, è facilissimo. Difficilissimo. Posso dare l'aiutino? È facilissimo. C'è anche il profugo, è un testo fondamentale della letteratura universale. Allora, è l'Italia. Fategli insomma, fare bella figura. È l'Italia, si fa coi profughi. Over a quarter century ago, my father stood before you to accept the nomination for the presidency of the United States. Più di 25 anni fa mio padre era qui davanti a voi per accettare la nomination a presidente degli Stati Uniti d'America. Così nell'88 John Kennedy Jr. alla convention del Partito Democratico, simpatico, affascinante, talentuoso figlio di John e Jackie. Difficile dimenticarlo col suo cappottino azzurro mentre fa il saluto militare davanti alla bara di suo padre. John morirà in un misterioso incidente aereo la notte del 26 luglio del 99, vittima, come molti dei suoi familiari, familiari di un destino crudele che ha colpito tre generazioni della dinastia più amata dagli americani. La maledizione dei Kennedy, glamour e tragedia, emozione e mistero in un racconto confessione di uno dei figli di Bob. Qui a Mix 24, il giallo della storia dopo il giornale radio. Mario, c'è una notizia sull'aereo? Sì, abbiamo un aggiornamento. Il jet è abbattuto al confine tra Siria e Turchia, pare essere un Sukhoi 24, quindi un aereo sicuramente di fabbricazione russa, ma pare che i piloti siano eiettati. Come e quindi sono vivi. Quindi sono vivi tutto. E sono stati catturati dai militari turchi. Questo è un caso internazionale assolutamente molto grosso. Come dice Pietrangelo Sarajevo. E altro che la vicenda dei Marò, questa sarà più complicata. Poi insomma, perché Ankara spari così al volo mi sembra una cosa incredibile, viabilità. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. vi presenta Mix 24. Mario, ci sono ancora notizie? Sì, andiamo sempre in diretta, on air, come suol dirsi. Mosca ha confermato l'abbattimento di un proprio jet. Quindi il caso c'è tutto a questo punto. Quindi, riassumendo, un aereo russo è stato abbattuto dai turchi? Dai turchi, dagli F-16 di Ankara. Confermato anche gli F-16 di Ankara. Quindi sì. Questo, giustamente, come dice Pietrangelo, caso internazionale che sì, andrà ben oltre i Maroni. Esatto, già nelle settimane scorse c'erano stati segnali di operazioni nei cieli tra Siria, Iraq, Turchia, molto confuse, nel senso che manca ancora un coordinamento. Diciamo anche un'altra cosa, mi pare che anche sull'abbattimento dell'aereo russo, quello che è partito da Sharm el Sheikh, civile, ci fossero molte sì, ci sono molti dubbi che sulla portavano matrice verso la Turchia, insomma almeno sì, alcuni servizi segreti sì dicevano questo. E poi c'è un elemento ulteriore pericoloso, che la NATO è membro, cioè la Turchia è membro della NATO. Quello è quello il vero tema. Il vero tema è quello, quello che chiedevo ieri a Prodi, dico ma non sarebbe necessario avendo la Turchia questo doppio binario, no? Da una parte dice di combattere l'ISIS, dall'altra parte abbiamo detto li finanzia, fa da porta girevole a tutti quelli che all'estero arrivano. Abbiamo un aggiornamento ulteriore che dimostra come questa cosa sarà comunque minimo un caso diplomatico molto serio, perché il ministro della difesa russo ha confermato appunto l'abbattimento del cacciabombardiere tattico, il Sukhoi 24, ha confermato che i piloti sono riusciti a salvarsi con i seggiolini eiettabili. E però ha detto e assicurato di poter dimostrare testuale che il velivolo era rimasto nello spazio aereo siriano per tutta la durata del volo. Ora qui il vero tema cos'è? È il caccia ha sconfinato o no? Perché se ha sconfinato e l'hanno abbattuto, vabbè, la Turchia può agganciarsi a una scusa, diciamo, certo, a un chiodo dove appendere il suo quadro. Ma se i russi dimostrano che non ha sconfinato e l'aereo è stato abbattuto, le cose per Erdogan si complicano molto, certo. Sì. Senti, vabbè, intanto abbiamo Claudia da Roma per il nostro canzoniere. Buongiorno, sì, signora. Buongiorno. Allora, dica. Sì, l'Eneide, secondo me. Giusto, signora. Grazie. Che cosa fa di bello lei? Io sono commercialista, però ho fatto il classico. Ah, beh. Ci ascolta la mattina, allora ci sempre fa piacere. Sempre in macchina, molto volentieri. E complimenti. Grazie. Grazie, signora. Mario, c'è ancora una bolla? Sì, abbiamo una bolletta musical politica. Dice questo torbido cielo al miserondo. Allora, che cos'è questa meraviglia? E questa è la Giovanna d'Arco. Vedi, senti. La Scala. È la Tebaldi. Tu vai alla prima. prima della scala? No, io non vado, no, no. Tu vai? No. Pietrangelo ci rappresenterà. Ma io non sono così mai chic alle prime, che, però mai alle prime. No. Allora, non va neanche Mattarella. Francamente, questa è una cosa che a me ha un po' sorpreso. Ma dice, dunque, almeno da quel che abbiamo letto in questo caso, il Quirinale dice: no, ma c'è anche il Giubileo. Però, perché c'è l'apertura del Giubileo? Il ora, giorno però, dopo, la mattina dopo. Allora, che si fa? Non si va alla prima della scala, il Presidente della Repubblica? Non lo so, a me sembra un po', come dice, un po' spinosetta questa cosa. Butta fuoco col dito alzato. Il Presidente della Regione l'ha invitato. Sì, Maroni ha detto venga, altrimenti sembra che... E lui ha risposto, la mattina dopo c'è l'apertura del Giubileo. Questa è la notizia. Sì, esistono gli aerei, quelli civili, gli elicotteri. Chiedetemi un commento. Prego. Commento, Pietrangelo. Prego. Dite, fai un commento. Fai un commento. Ci fai un commento. Non commento. Come no, scusa, perché è Quirinale, dai. Dai, non basta. È per finire la lontananza di Domenico Modugno.